dottor Giuffrati. Oh no, è per prendere l'acqua, perché non ce l'aveva col pensione. Non stai più giocando? Beh, bisogna mettere un freno. A chi ero scendo appena pura. Ah no, non ti fa bisogno, Però avevo posto un freno a mano. Ma mia, gatto di mia, tu. Ok, non mi stumo, l'altro giorno imboccando su di altri mannaggi. Poi però gliel'ha fatta scendere. Schiaffa. Ma siccome no, non ha a che fare con un minchione. Allora io ci sto attento. Quello lì ha messo, ha imboccato un po' di linea, Però poi ha fatto scendere un bel gruzzoletto. A me così già va bene, ma noi come te ne pego uno che si fa dare il sacchettino fa punire di spiccioli e state sempre lampende tra la macchinetta, si varia un raglio. Così poi arrivano gli altri che mi danno i dubbi. Che mi ha arrivato il pollo che ci ha messo in su. Io ne ho tanto già nei capo puro, io qualche cosa. Più di un euro però non metto. Infatti bisogna essere. Come comprate un gratta e vinci, dai. Non ne ho soldi da buttare già. Beh, se va bene con un euro, tanto di guadagnato, se non va bene pazienza, non è che presso chissà che cosa. Scappa. Molte volte si può andare bene, la macchinetta fino a 1.000 euro paga. Allora, mi ricordo poco al vinto, quanto dicevo 1.200 euro. Io gli dici 200 euro ha bugato 1.400 euro con 30 euro, 20 euro. Fate lo stipendio. Ci fanno lo stipendio, 1.400 euro. Ma lo stipendio ce l'ha fatto. Ma trattata, sono spaccata. Ha bugato quanto esiste. La tribale di Luisen. Oh vabbè, se tu guarda non vinci mai con le macchinette. Vinci mai. Assolutamente, perché sì. Vinci oggi, ci guarda domani, ti fai giù di conti, se la sempre della tua. Lo so. Però se riesci a vincere con poco, c'è una gran soddisfazione. Vabbè, lo so. Io ho perso una volta, ho vinto 400 euro, vabbè già gli do da punire. Vedi cosa succede. No, ma una volta che tu vinci quello te ne devi andare per risolverti i tuoi problemi. Vabbè, succede, purtroppo, vista. Succede, cosa vuoi fare? Proprio così, capito già a te, domani a un altro. E poi non si paga più così. Ma una volta che ne può credinare, devi pigliare il fatto e te ne devi andare. Beh. E fare quello che piace a te. Lo so, ma sono tornato l'indomani, mica ho giocato subito. Sono tornato l'indomani, ma fottito. Ma allucinante, ragazzi. Lo so. Non lo so. Era meglio che ti comprassi quello che ti piaceva a te. Qua ogni tanto ci vado. Da poco ne ho dato 24 euro. 25 se non mi ricordo. Però poi ne sto recuperando. Piano piano, le recuperi. Se riesci a fare un bel bottino, ti innate, e magari ti fai anche il regalo di Natale. Diciamo che la fanno in due, non mi chiamo solo mio. Comunque, vabbè, sempre di regali, 400 euro. Certo, un po' di denaro, 250 a testa. 200? Che 200? Ah sì, hai ragione, perché se era stato 500 era stato 250 a testa. Non c'è nulla, c'è una parola. Voi l'avete rigiocato tutti il giorno dopo? Sì. Mi fanno parlare, devo pagare, e lo ci sta tutti giù. Capito? Niente. C'è una parola. E lui va purtroppo, lui è andato a Gussi, poteva andare diversamente. Comunque c'è, sono soldi, sempre sono lì gli altri, non sono lì Gussi. No, io non ho mai giocato, non so manco come ti dici io. L'hanno detto, ti preso, non vi voglio giocare proprio per principio. Che siccome ti abbia continuo. No, basta darti una regolata. Ogni tanto quel 2 euro me le gioco. Esce, se non esce pazienza, io ogni tanto mi segheggio di name. Che volte hai vinto? Un sacco di volte. una volta 50 euro, una volta 80, 100, ma non di più, non sono mai andato oltre. E vabbè, si va, mi si va. Adesso sono, quando sei portato a certe cifre, sto aspettando un bel bottino a chi mi si è destinato a andare. Che a me anche. Schiappa, è un casino, un gatto. 4,70, pronto di tutto. Ah. 4,70, pronto di tutto. È tranquillo, sì. Sì, omologato e su richiesta ti mettono anche l'attacca stacca a modifica. Quello lì parte così dalla casa, di quelli di importazione. Dalla casa parte così. Ecco, colte, effetti di colte, non regolabile, regolabile la potenza, regolabile tutto, c'ha finale a mosso, tre luci blu, insomma, un bel di cosa. Ma non lo fa la casa lo va normale. No, non lo fa la casa così. Qualche aggiuntura gliela fa il venditore. Ma sicuramente lo farà con gli elettronici. No, non è lui. Un altro ancora. Sono tecnici della comunicazione che lo fanno, non pivellini casalinghi e cose del genere. Così c'è scritto. C'è sedia alla vista, si può acquistare. È un bel costo, ti viene quasi 500 con la spesa di spedizione. Così sono. Però ho sentito girando, si intende anche tu. Su YouTube, e lo vedi. Guarda, io ne ho sentito uno fatto a Torino. Mamma mia, quanto è potente. Questo qui c'è anche una cosa, che non prende disturbi della macchina. Calma. Questo che ho sentito fatto a Torino è una bomba. Ma lo sai cosa vuol dire una bomba? Cioè, è una cosa impressionante. Quelli sono tutti schiumati, intanto. Non lo so cosa li fanno. E a Torino li schiumano. Comunque, questo che ho sentito io è di una persona, Ma è una cosa impressionante. Bianco un attimo, vado così a capiccolo. Vai. Cava di positivo e cava oggi, Gianni non più room. Vabbè Gianni, allora. Dove venire staccia? Dove venire? A casa, col bambino con la febbre, dove vai? Chiuso. È successo un guaio ieri, meno male che sono tornato presto. Sentita mia moglie gridando e cose, cavolo, mi sembrava che si sentiva male qualcuno, invece si è scoppiato il coso del rubinetto del bidet, mi sta prendendo tutta l'acqua. È possibile? No, c'è, non è flessibile, ha detto il rubinetto del miscelatore, c'è quella cartuccia. Ma lì si è spaccato. Spaccato a quello, gli ho cambiato il rubinetto, vado a mettervi i flessibili nuovi e niente. Non andavano bene come misura la filettatura. Ma com'è? C'è un amico che ci aveva raccordo tutto quanto. Abbiamo messo il raccordo. Piazziamo tutto quanto, cazzo per aver rubinetto d'arresto, detto basta, va li faccio di tutto gatto. Ma sai, rubinetti, già li ho preso stesso, li ho fatti poco, ma rubinetti a due di là, mi sa come sempre, l'ho messo nel bidino, ma basta nuovo. Però sono idrisi già, fatti poco, ma non è che sia stato granché. Mica conviene spendere 20-30 euro in più, ma prendo un rubinetto buono. 99 euro costano quelli di marca, quelli che ti durano la vita. No, ma dico, rubinetti, sono i primi buoni, è un casino. Poi poi il tuo era difettoso, dipende. Comunque i migliori sono sempre con la manopola. Cioè, non c'è paragone, sono migliori. Anche se con la miscelatore sono più, diciamo, più... ti viene meglio, sono meglio già miscelata l'acqua. Poi se con la pomela te lo devi lavorare tu. Comunque, vabbè. dipende, lo ripeto, questo l'ho comprato io, ah non sì, però fa troppo casino, cioè l'acqua troppo pressione li manda. Come? Non so, e facciamo i flessibili. Il fatto è quello, se scoppiato flessibile, branca per flessibile, è una misura da diversa quella che c'è nel rubinetto, perché ci ha fatto tutto il kit, no, la scatola completa, era diversa. Ma vabbè, è andata. Tutta la sera Gussi ha preso i subini da voi, pari a fatta bussa. E come è stata la qua sotto, ne ha fatto tutto quanto per... il gesso che c'è attorno, adesso tocca rifare tutto il gesso pure. Come c'è un ritorno? Niente, appaga, comunque già, adesso già risolto. Sì, non già, questo rubinetto adesso hanno risolto quasi tutti, vediamo un po', la struttura via visto, e su due, ah, c'è qua due, fatto full, tiè la cassa, tiè la mano, ma ci umare, per carità. Rotto già, mi si è rotto. Partuccia che c'è nel miscelatore. Ah, si è spaccato il miscelatore, troppo. E all'interno c'è una cartuccia che fa lo scambio dell'acqua. Ah, è bene. Si è spaccato. E vuole nuova. Hanno comprato tutto il rubinetto completo. Non so. Dove l'hai preso? Da Brico io l'hai comprato. Brico me, se ce l'hanno. È la fusseria che ha detto io con quella. Da vai già. Non era tanto una fusseria, ho dovuto mettere pezzi dell'altro rubinetto, perché sennò non l'avrebbe mai piazzato. Perché aveva quelle barre filettate che erano troppo corte e non ci arrivavano, ho dovuto smontare quelle dall'altro rubinetto e metterli quelle. E poi altre fesserie che non sta a dirti quel regolatore, quello per chiudere il coso, il tappo nel lavandino, nel bidet, quel tappo che chiude e apre, no? Quello lì era diverso. Dove montarci gli altri, dove montarci. Lo so. No, già. Lo so, è sempre così va a finire. Basta se monti gli altri pezzi e va bene lo stesso. Così avevamo fatto. Ma adesso già è fatta, se la bida luce, adesso devo comprare un fusibile, un flessibile, perché ne ho cambiato uno solo, quello che si è scoppiato, l'altro non andava bene, non ci avevo raccordo e quindi non si è potuto fare niente. Che ottimo. E cosa ci hai messo? Ci hai messo il tappo. Cosa? Il tappo ci hai messo. Dove? Questo c'è il flessibile scoppiato. Dico nel muro, ora ci hai messo il tappo. Ho chiuso il rubinetto d'arresto, anche lì c'è il rubinetto d'arresto in ogni parte. Ho chiuso quello lì e poi praticamente gli ho messo l'altro flessibile. Adesso c'avevo un raccordo, questo amico mio da piccolo a grande, e me l'ha dato. Chiaro, ho dovuto domandare di dargli qualche cosa se lo sente. Anche che ci ha pensato. E nel momento che lo stavo facendo ero veramente qua, una dopo l'altra, poi si è scoppiato veramente i flessibili vecchi perché gli altri non andavano bene. A un certo punto apro leva, pum, e si scoppia il flessibile, via correndo dalla sala a letto. Per quale motivo? Vuol dire che era già lesionato, visto da un momento all'altro ti facevo lo scherzo brutto. Sì, sicuramente come poi l'abbiamo manipolato svizzando le cose, magari piegandole la frase. Ciappa. Uiaia. Comunque già. Sicuramente c'ha l'attacco fine sopra che fa il rubinetto e poi sopra che. Sotto quello che fa al flessibile, quello normale, così. No, era proprio quello lì che era più fine. parte che dove trovate un raccordo affino a grosso. Ah, il muro era più fine. Capo. Ah, e poi qua non c'è problema, basta mettere i raccordi giusti. Penso che sia stato raccordato anche al muro, no? No, no, prima no. Prima l'altro, quello vecchio, no? Cioè, va alla misura giusta. E vabbè. Tu ti avrebbe i pezzi, quando non ce li hai, tanto di domenica è un casino. Poi di uscire proprio non avevo gana, infatti andate a mia moglie a comprare il rubinetto. Chiappa, e già ti ho capito cosa hai fatto. Allora, tu c'avevi il maschio e per metterci il flessibile femmina gli hai dovuto mettere per portare il raccordo, così. KK, no, perché era più fino anche tu. Quando è più fino devi fare il raccordo da più stretto a più largo, capito? C'aveva la femmina praticamente che era fina ed è entrata larga come doveva essere invece che fina. Ah, poi basta metterne un raccordo in via. Teflo. E va bene. No, una fastidia, fare il lavoro. Ci vuole un pochettino di pazienza e studiarcelo bene. No, mi ha rotto le palle con l'affare a te fare, a quello del tappo. Ah, era più lungo Antonio, anche quello lì. È tosta quella, è tosta. Infatti, se me lo diceva a me te lo dicevo subito. Certo. Perché io lo so, perché noi abbiamo una rottura di spalle come quella, devi mettere i pezzi vecchi, perché quello lì non va bene a quello là, cazzo, casino. Più lungo, vuole segato. Allora l'ha giubbiggiato, l'ho piegato appena appena, l'ho accorciato piegando e funziona bene adesso. Chiappa, io se no lo devi togliere, lo devi tagliare. Tagliato voleva, ma tanto toccava di nuovo smontarne tutto, perché toccava il muro, il muro, il tubo toccava. Lo so, perché ogni cosa ce l'ha diverso, ce l'ha. E quello lì è un piccolo casino, Ma no, se li attrezzi per tagliare come ce l'ha per farlo, piglia la mola, tu ti cominci lo taglia, ma cazzo, quando sei a casa è un casino. Lo so che... E qua se l'abbiamo tagliato. Poi la mossa, 5 minuti, se uno non deve pure abitare, fai pure la mossa, e fa... Chiaro, no. Ma, arriva in occhio, chiaro. Vabbè, non ci ho pensato. Sì, troppo lavoro ci voleva, già era un casino, tutto fosse in terra, mamma mia, va. Un casino. Perché malgrado fosse chiusa l'acqua, poi c'era la rimanenza del tubo. Già lo so, già, è un casino. Bisogna ponere un tappo. Sì, era giù busco. Chiaro. Se gli ho tutti e due, se gli ho uno piccolo e uno grande, già può prendere. Che cos'è i tappi? Anzi, lui. È una voce già conosciuta, avanti. Buonasera, sono Alfa Bravo, sempre io, sempre per due controlli, di segnale solo, se possibile. Prova a vedere Alfa Bravo. Non parlo così, non c'è neanche il picco. Ok? Cappa, 9:20 radio 5. Qua sei a fondo scala Alfa Bravo. Ok, passo su un'altra antenna, vediamo come va lì. E qua voi metti male vi occupa, non mi biasi. Siccome stavo usando il microfono normale con la radio, non mi occupa l'assetto. Ecco, mi dici com'è adesso? Adesso va meglio. No, come segnale, non c'è bisogno della radio. Segnale 9:20 modulato, sì. Quindi è identico a quello di prima. Poco più alto di prima, ma non di molto, da me, perlomeno da me è di più alto. Questa orizzontale con la verticale. Ok, va bene, scusate l'interruzione, rimango in ascolto. Brava, qua sì, la radio è buona, il segnale è a fondo scala pure. Se tutto va bene, io sono qua a Lima Delta, quindi qua mi stai arrivando a bomba. Comunque magari anche l'orizzontale si è puntata verso di noi, fa la direttiva, per cui potrebbe essere vero. Può darsi, dipende anche la l'interazione con l'altra azienda, ma speravo che l'altra fosse un po' più forte, perché è una verticale molto più grande, ma non è per 27. Va bene, come ho detto. Rimango l'ascolto, grazie. Ma bravo, se vorrei chiedere una cosa, a me è puntata verso di me l'antenna, perché qua stai arrivando, stai toccando il digitro, a fondo. Non te lo so dire perché non so dove sei tu. Diciamo che mi colloca in partita, quindi non so quanto sia dopo di reazione come direttività. Tutto lì. Appagata. Mi dai un'ultima cosa, un cambio di segnale come arrivo. Qua sei fortissimo, sei proprio tutto a fondo. Me lo dai un cambio di segnale? Come no? Ma è 9.20 su un Galaxy, e quindi se sei come Galaxy c'ha il classico meter, che non è che sia eccezionale. Sull'altro non lo so, dovrei trovare anche sull'altro, ma penso che sull'altro sia con Scala. Sì, grazie. Grazie, no, qua c'è tutto a fondo. Ok, grazie del controllo. Per essere stati 9.40 sull'altro, è più serio come apparato. Ci contavo, perché qua c'è tutto a manetta già, è fortissimo. Ok, va bene, avanti già. Io sono Tolarico, cordialità, Alfa Bravo, Vicente Twain. Cosa dire se non lo rilancia la Luca? Però qua rispetto a 9.20, la radio non è che, insomma, così non è, però l'ascolto un po' maluccio, che radio un po' quasi nasino, sarà raffreddato, non so. Sì, per quello non c'è problema, sono super raffreddato, c'è per portare per ragione. Allora, in casa la ti trovi tu, scusa se posso? Come no, zona Puti. Ah, scappa, mi ascolti bene, ma sì. Dunque 9.15, 9.20 dovrebbe essere un po' più debole degli altri. Vabbè, però adesso sono una zona un po' coperta, però la Budi, qua c'è Antonio e Gianni, ce li ha proprio di fronte. Andate avanti Gianni, riprendi. Ma questo signore mi sembra di conoscerlo, a me se è quello di tanti anni fa. Ma di tanti però Consideriamo che io ho un 35 anni di modulazione, quindi se sono di più no, ma 35 ce li ho. Non lo so se modulavo ancora qua, ma non credo, quindi forse mi stai confondendo. Sono ancora più vecchio, quindi facciamo pure un 20. Okay. Vabbè, la voce è molto simile a quella di Vittorio Giove, però non lo so che non sei tu. Però è la sua epoca. E quindi quando c'era Vittorio, va, tutti quelli... Modulavo già io. Ma non è più di 35 anni, Beh, io ho iniziato 30, più di 35 anni fa. Paga. Vabbè, comunque, io tutti i vecchi CB, tutti conosciuti, Pal Pegas, non so se te lo ricordi, Macalè, Giuli, insomma tutti quelli lì. Sì, tutti conosciuti, anche se ero giovincello, però conosciuti. Conosciuti in radio, ovviamente, perché di persona conosciuti pochissimi. No, io invece andavo al Radio Club Nord di Sardegna, che c'era lì via Luzzatti, frequentavo lì, arrivavano le QSL lì in sede. Ma io non sono mai stato in sede lì. Ok, non vogliamo neutralizzare perché ci sono gli altri, ma andiamo a prendere l'ascolto che sono stato appunto con alcune cosette. Papagallo, riprendi, comunque Rix, allora, riprendi Antonio. Sta venendo nominativo Carlos Primero, puoi essere. per carità, non vorrei offendere. No, no, io non lo conosco di persona, però sapevo che muso da quale parte. Sì, sì, già vicino, già vicino. Io ho pensato quello. Ma andiamo tu. Da. Qualcuno c'è? No, ti ho detto avanti, andiamo tu. E capo, sono dovuto andare un attimo in QTH piccolo. Ah, vabbè, non c'è problema. Riprendi, riprendi. Alfa Bravo, è andato via? No, è in quel rischio, ascolta, sta mettendo a punto alcune cose, non so se c'è un'apparecchiatura o che cosa. Cazzo cappa. E già ho creduto che mi arrivi a Fossega. E lì, lì, Anto, io mi sono passato sotto l'altro giorno, era fondo scala. Cappa cappa. Beh, certo, in questa zona, perché qua è proprio tocca di biti, fortissimo. Ma va bene. Sì, vabbè, è lì in zona sicuramente. Che ha pagato. Ui, ai, ai, ai. È andato a sabato. Sì, non è manco l'unico, c'è ancora bisogno, già bisogno della sabato. Come ti dice, le capelle, è andato a sabato. Sono, lo so, anche è dura. È dura, sì. A belli capelli, a conosci. Sì, a voi. A Milano che piccolo che si dà la bicicletta 90 che è giù, viene giù la benzina. Quando ti vede. Solo stava lavorando già, vedi, dove stava lavorando? Eh? Io non l'ho visto, aspetta. Cioè, fammi ricordare bene adesso, quando l'ho visto? Ma non va tanto comunque, mi stavo lavorando, ma dirà già da come la va piatta. Che va? E va detto. Io sono contento, dice che sta bene anche di famiglia e coso, e è laureato, boh. Ma non è maculo. Ma il fatto sta che la volta l'abbiamo preso dell'ambulanza che era in coma etilico, era la marica dell'ambulanza e avevo dovuto chiederti i finestri perché stavano volando i piloti. No, c'è, no, Roberto, che a me quando mi vede da lontano, perché siccome frequenta lì, Viale Dante frequenta sempre, con tutta la sua combriccola, ragazzo, con Ciccio, tutti chi si, cioè un po' come lui, dai. Quando mi vado da lontano, e prima acqua. E non cambierà mai, no? A me mi hanno detto che ha cambiato del tutto, ma invece, che sta vestendo un bel bene, che ha cambiato carattere, tutto qua. Sì, ma la voce non l'ha mai giambata, no? Ah, la voce no, io ti ho detto sempre prima che tu vedi, non cambierà mai. No, vabbè, quelli due lì non c'è più, ma quelli due lì no, c'è proprio... Però, poi tu lo vedi la sera, verso le 6:30, 7, lì in Viale Rampe, dove c'è la... quel capo di corso di finanziaria, lì si posano sempre. Con tutti chi si, cioè, un poco come te, dove? E quindi lo vedo di sera, ma i capelli ancora così ce li ha. No, ma la sera ce li ha corti corti adesso. Ma ce l'hanno conosce bene lui. Rosso adesso. E così è detto. Guarda, la moto la riconosci da lontano, c'ha uno zip, vado zip, intendo a me, c'ha uno scarabeo tutto pieno di scritte, malosi e bollini, Lo conosci da chi sono? Ma non è uno scarabeo, ha tutti i puri morto, Comunque, si vuole uno scarabeo. Scarabeo c'ha? No, tu dici, non è uno scarabeo quello. Ci ha fatto pure i vestiti truccate. Ma poi sono uno scarabello, è uguale, una grandezza, sì, una ruote, sì. Però non è uno scarabello, ma sai che sia un centro della Butti. No, ma fa lo scarabello, va. Tutto truccato, Non è, dimmi tu, giallo, sono iscritti a dottor Ferroccata, dottor. Tu ti sei marmettato, no? No, ti ha fatto un buon rimbezzi col marmettino. Quando accelererete a... che se... sei tutta truccata, me. Sì, truccata. Mi passavo che siamo morti. L'intervista gli ha fatto capo, come capo si chiama il capo, il signore che fa l'intervista, gli ha detto come si tratta la donna, e tu prende i morti così, e ma poi ha domandato altre cose, gli ha domandato altre cose, guarda, te lo provo, lo metto su YouTube e ti bici, ma su Facebook e ti bici dalle freggiate. Poi hai la scena, raga. Potete girare dal mondo, come state? Poi ragazzi, ho qualche attimo qui, c'è qualche birra, non so, qualche panino ti faccio. E faranno, perché la mia la parte della piazzetta su. Aspetta un attimo, è tra casa del tuo posto. Non ci come voi, mi si comincia a correre, dice quel ciano, mi si occupi, mi utilizziamo il valore a campo. Guarda, mi ci vado, non sta camminando. Questo è vero. Allora non faceva quello di campo, si fa da lontano. Pietro, vieni qua, Roberto. Stava in caga. Vedi, dai i capelli, vieni. Poi c'era questo, mamma mia, quanti pagattini non l'ho compreso. C'è un po' tipo un blocchetto, va via, in campo. Cena, ecca, una cena. Da voi qua, personaggi da qua, sono proprio lo metto su Facebook, cazzo. Ti dice dalle risate, cazzo. Ma questo, mi domanda fare cose e non ridia, cazzo. Come non c'è, non l'ho mai visto. Però se c'è, Cimbrana, però lui, non l'ho mai visto. Già c'è anche lui, già. Gianni. Ehi, ti ho addormentato, tira. 10 minuti di bianco, vai. Tu subito, ce l'ho fatto. C'è anche lui già, devo provarlo, che sto sempre cercando, ma qualche giorno l'ho visto. Già c'è anche lui, Dio stupisce, devo vederlo. Che... Beh, io vi saluto tutti, dai, rimango ancora lì, si può bene con la mamma che ci sono. Buonanotte a tutti e voi siete per domani. Allora, rimane ancora lì. Mi sto per addormentare. Chiaro, buonanotte. Buonanotte, senti a me.